Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Un saluto da Anna Marino. Questo è un programma dedicato alle piccole e medie imprese, proprio loro che in fuga dalla crisi e totalmente immerse nell'economia della crisi trovano la via per uscirne grazie a nuove e rivoluzionarie idee, rendendo concreta la parola innovazione. E sono proprio gli imprenditori in persona che ci raccontano come hanno fatto a pensare e realizzare le loro innovazioni, abbattendo gli ostacoli per far nascere nuove aziende e start-up, oppure per far ripartire settori tradizionali che annaspano. Troviamo innovazioni nate da intuizioni, dal territorio di appartenenza o in rete tra di loro, senza sedi né limiti, costruite con le proprie mani dagli imprenditori oppure aiutate da incubatori, università, camere di commercio, business angels per svilupparle e tradurle in progetti e fatturato. Ascoltarli vale mille astuzie, istruzioni per l'uso, suggerimenti e dritte da imitare per chi vuole sviluppare un proprio sogno di impresa perché diventi realtà, ma non sa proprio da dove partire e come iniziare e come farcela. Oggi ci occupiamo di idee che hanno come comune denominatore l'energia intelligente. Iniziamo da Cecomp, www.cecomp.it, un'azienda il cui nome vuol dire centro esperienze, costruzione, modelli e prototipi, che ha pensato come reinventare un settore dell'economia tradizionale come l'automotive, in grave crisi, puntando sull'ambiente e sull'energia pulita. Gianluca Forneris ci spiega perché sul sito campeggia la scritta «Il futuro della tradizione dal 1978» e perché il futuro è già nell'innovazione che portano avanti oggi. Il progetto è un progetto che fa viaggiare non solo con le idee ma anche ovviamente con i mezzi di trasporto, perché porta lontano un imprenditore italiano. Quando si è accesa la lampadina, quando è iniziata l'innovazione che vi sta portando via all'estero a viaggiare? Dunque, la nostra lampadina è la vettura elettrica, nel senso che la nostra azienda Cecomp ha avuto nell'ultimo periodo una buona visibilità per un progetto che stiamo portando avanti di vettura totalmente elettrica per il comune di Parigi. E questa lampadina si è accesa a metà degli anni 2000, intorno al 2005. In quegli anni abbiamo avuto l'opportunità molto voluta di iniziare a portare avanti e chiudere un progetto di uno dei primi progetti di vetture elettriche sempre per il gruppo Bolloré francese, cui abbiamo iniziato in quegli anni a lavorare in questo campo, e grazie a quel progetto di quegli anni oggi stiamo producendo questa vettura elettrica per un progetto di car sharing chiamato Autolib per il comune di Parigi. Questa nuova idea non nasce dal nulla, ma nasce da una tradizione e da un settore ben consolidato come quello automotive che voi avete innovato. Sì, il settore automotive è un settore in questo momento un momento di stallo se non in crescita negativa. E uno dei pochi spiragli che abbiamo visto già un po' di anni fa che poteva dare qualche prospettiva importante era sicuramente la mobilità sostenibile, per cui tutti i generi di vetture ecocompatibili. Quindi questo progetto, in questo senso, ci abbiamo creduto tanto già diversi anni fa e oggi ci sta dando parecchio, perché sta facendo fare un salto, una crescita all'azienda importante. Voi comunque avete basi ben solide, noi abbiamo ben piantate. Basi ben solide perché l'azienda è stata fondata da mio padre negli anni 70, periodo in cui c'erano ancora Torino, e dunque portiamo ancora avanti una tradizione di carrozzieri, per cui a partire dagli anni 50, anni 60 a Torino c'erano decine e decine e decine di carrozzieri, e si lavorava in un certo genere di attività che man mano è andata in un certo senso da una parte evolvendosi e dall'altra parte un po' sparita. Per cui se negli anni 60, anni 70 c'erano decine e decine di carrozzieri, oggi ci possiamo, non dico contare in una mano, ma forse in due. E che cosa vi ha aiutato in questi anni e che cosa vi ha ostacolato, a parte la crisi o insieme alla crisi? Ci ha aiutato molto il fatto cercato di lavorare a partire dagli anni 90, già con mio padre abbiamo iniziato, e con l'ingresso appunto mio di mio fratello in azienda ci siamo orientati molto verso l'estero, per cui siamo un po' usciti dal mercato, poco per volta dal mercato italiano, e attualmente la nostra azienda fattura quasi il 100% estero, per cui questo negli ultimi 2 o 3 anni. Punto di forza sono state le idee, le idee che avete venduto in giro per il mondo, e punto invece di debolezza e ostacolo che avete trovato in Italia, ma anche all'estero? Il punto di debolezza lo vivo quotidianamente. Abbiamo dei costi, soprattutto adesso comparati con quelli anche solo europei, che sono decisamente importanti, cioè nel senso i nostri dipendenti alla fine prendono poco in busta, ma l'imprenditore paga degli stipendi lordi veramente spropositati alla fine, per anche il beneficio che gli stessi dipendenti ricevono. Le idee anticrisi che avete avuto, si sente un eroe di averle avute, oppure sono anche consigli, ci sono dei consigli che possono essere applicati ad altri, ovviamente? Ma penso che credere in un mondo un pochettino più verde non sia eroico. Tutti i servizi su un lampione, dal wifi alle telecamere per il videocontrollo, al distributore per auto elettriche, senza dimenticare di risparmiare energia fino al 60%, e in tempi di crisi un costo diventa un risparmio e un servizio a cittadini e imprese. È un'utopia? No, esiste, e la realizza GKSPI, www.gkspy.com, e si chiama Eco Smart Grid perché è smart, intelligente ed ecologico. Il suo volano è stato un incubatore per giovani imprese innovative, TIS Innovation Park, www.t.biz.it di Bolzano. Per quanto riguarda la vostra iniziativa, Paolo Plebani, lei ha deciso insieme a lei l'azienda di dare una svolta alla vostra azienda, partendo non solo da una lampadina che si è accesa, ma proprio da un palo della luce che concentra in sé tutte le idee innovative. Ecco, com'è nata questa idea? Abbiamo deciso di rivoluzionare il mondo della pubblica illuminazione rivedendo il concetto di lampione. Attualmente il palo della luce è visto come un soggetto passivo all'interno della nostra città, quindi lui fa solamente la luce e tendenzialmente non fa nient'altro. Una cosa che magari non tutti sanno è che durante il giorno il palo della luce all'interno non ha corrente elettrica, e la corrente viene accesa direttamente dalla cabina elettrica quando arriva all'imbrunire. L'idea nostra era quella di rendere invece il palo della luce un soggetto attivo, dando la possibilità di montarci sistemi di videosorveglianza, sistemi di antenne wireless per dare internet gratuitamente a cittadini e turisti, fargli fare determinati servizi interessanti sia per il comune che per le persone che ci abitano. Per poter andare avanti in questo settore, il nostro obiettivo principale era quello di rendere sostenibile economicamente l'investimento da parte dei comuni, visto il periodo di crisi che abbiamo. Quindi abbiamo adottato una tecnologia che si chiama tecnologia Powerline, che è l'onda convogliata, che in realtà da noi è già partita nel 2004 come tecnologia all'interno della nostra azienda. Quindi con l'adozione di questo sistema riusciamo a offrire un servizio di pubblica illuminazione ai comuni che gli fa risparmiare circa il 60% di energia sulle bollette energetiche. Il risparmio energetico che riusciamo a creare viene poi logicamente riutilizzato dal punto di vista economico per offrire questi servizi alla cittadinanza. Quindi questo è il punto di partenza da cui noi abbiamo deciso di partire proprio il progetto Eco Smart Grid nel 2008-2009. Sul mercato siamo dalla fine del 2010. Per quanto riguarda la vostra innovazione, quindi si parte non solo dall'illuminazione, ma di una serie di servizi complessivi. Avete deciso di rendere utile quello che in realtà magari per una certa parte del giorno era inutile. Da che cosa è partita questa maggiore volontà di risparmiare, di utilizzare al meglio quello che esisteva già? Ma in realtà è solamente un discorso dovuto al momento economico in cui ci troviamo, quindi i comuni tendenzialmente, che sono poi i proprietari dei pali della luce che abbiamo, hanno problematiche a investire. Quindi il discorso di poter dare nuovi servizi, di creare sistemi di videocontrollo urbano per la sicurezza degli abitanti, tutte queste cose sono molto belle, logicamente hanno dei costi. In qualche modalità devi rientrare di questi investimenti. Se fate il calcolo di quanti chilometri di cavi elettrici abbiamo sotto i nostri piedi quando camminiamo, andiamo in giro sulle nostre auto, quel cavo, con questa tecnologia parlano, siamo in grado di trasformarlo da un comunissimo cavo elettrico in un cavo informatico. Quest'idea ce l'aveva avuto qualcuno prima di voi? Ma in realtà noi siamo stati tra i primi a portare questa tecnologia in Italia, perché abbiamo una fortuna. Noi, vivendo in Alto Adige, lavorando in Alto Adige, fatevi il calcolo che in Trentino Alto Adige abbiamo circa una settantina di aziende elettriche che producono e distribuiscono energia elettrica. Da questo punto di vista, appunto, cominciamo a capire quali sono le leve che vi hanno aiutato. Molta concorrenza e che cos'altro? In realtà non è tanto la concorrenza quanto la possibilità di parlare con tanti direttori di aziende elettriche, proprietari dei cavi che entrano nelle nostre case. Nel resto d'Italia tendenzialmente abbiamo un unico nome, che è Enel, quindi logicamente è un colosso dell'energia, e determinati tipi di progetti, anche se logicamente hanno provato anche loro poi a fare determinati impianti, anche un impianto importante di cui si parlava tanto era Grosseto, in realtà poi non se n'è più saputo niente. Noi abbiamo tenuto duro, ma in realtà dal 2007-2008 è una cosa che quotidianamente installiamo in tutto il nord Italia. Come si è sbloccato il tutto? Si è sbloccato cambiando target a livello commerciale nostro, quindi dire bene, come possiamo fare per andare a fare un lavoro a Messina? L'unica possibilità era quella di trovare cavi elettrici di proprietà, in questo caso dei comuni o dei privati, quindi non avevamo più problematiche di dover parlare con l'azienda elettrica locale o l'Enel o chi segua poi questo servizio per il comune stesso. Quali altre cose vi hanno aiutato o ostacolato? Cioè, ci sono stati per esempio un network dei business angel, degli incubatori che vi hanno dato una mano? Noi siamo nati all'interno di un incubatore per le giovani imprese innovative in Alto Adige. Come si chiama? Ai tempi si chiamava BIC, era il Business Innovation Center, che adesso si chiama TIS, TIS Innovation Park. Noi siamo di Bolzano, era Bolzano, siamo andati a trovarli, e abbiamo presentato un business plan, quindi logicamente loro di richieste ne hanno, non dico quotidianamente, ma quasi, logicamente poi fanno una sorta di selezione per capire quale più o meno innovativa. Quindi vi siete guardati intorno nel territorio? In realtà è stata una cosa molto interessante, perché a parte darti la location, quindi l'ufficio, perché questa è la cosa anche bella, partendo da zero hanno la possibilità anche di darti in affitto degli spazi, ti danno dei servizi di consulenza già integrati in quello che è il pacchetto che ti offrono, ti danno a disposizione una serie di tools che ti servono per cominciare a prendere un po' più di mistichezza con quello che è il proseguio della tua attività. Quindi se hai bisogno di informazioni tecnico-legali sui contratti, hanno le persone che ti seguono, sul marketing uguale. Esistono poi n altre figure che nel frattempo poi sono nate. Una tra queste sono le volpi grigie, come le hanno chiamate, sono quindi questi, chiamiamoli, imprenditori di una certa età che mettono a disposizione il loro know-how e consigli per evitare di farti fare delle esperienze magari negative. Avete sentito una delle puntate speciali dedicata proprio alle piccole e medie imprese? Questo è solo un assaggio, perché a luglio e ad agosto vi aspettiamo. Ritorneremo con altre storie per la nuova serie di Voci di piccola impresa, Idee anticrisi. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.